ieri la mia ragazza per dispetto è andata a passeggiare con Armando, però se crede che io me la prendo con un'altra me ne vado a ballar, che me ne importa a me, può far quel che le pare. Son duro e lei lo sa, per questo non ci sta, però mi ama di più. Le ho detto mille volte, non me ne importa niente, io sono indifferente a quello che lei fa. Tango, tango d'amore, che fai soffrire il cuore di chi vuol bene. Tango del mio dolore, sono tre mesi che ci siamo lasciati, sono tre mesi che io sto soffrendo, m'han detto che si sposa con Armando, lo sapevo che finiva così, che me ne importa a me, può far quel che le par, e Armando non lo sa che questo lei lo fa per far morire me. Colei che lui si sposa, colei che sembra un giglio, lo fa per un puntiglio, per far dispetto a me. Tango, tango d'amore,